Terza parte di Rock Legends, come sempre Gianluca al microfono, e lo ricordo, stasera ospiti Several Union da Cesena. Con voi e con loro ascolteremo sei brani del CD Awake From The Game, come il primo che è andato in onda, titolo Best Of Me. La vostra esperienza durante la registrazione, quali sono le linee guida che hanno tracciato questo vostro disco, che lo ricordiamo è il secondo che fate, per cui avrete sicuramente lavorato con più esperienza del precedente. Ma sicuramente, guarda, anzi ti dirò che ce lo siamo sudati di brutto questo disco. Bene, dai. Insomma, rispetto al precedente abbiamo voluto fare le cose sempre più a fondo, abbiamo voluto curare arrangiamenti e melodie, addirittura abbiamo fatto una grossa parte di preproduzioni a Roma, allo Sky Studio, e prima ancora di entrare in studio, insomma, con il nostro beneamato, fidatissimo produttore Riccardo Pasini. E quindi, insomma, tanto lavoro prima, tanto lavoro in studio, tanti cicchetti in studio dal nostro Paso che, insomma, esatto, sa come spronarsi a lavorare. E poi alla fine, insomma, questo disco, come ti parlavo prima, l'abbiamo mandato in America da Ted Jensen, insomma, agli Stalin Sound Studios di New York per il mastering, e insomma siamo contentissimi del lavoro che è venuto fuori e speriamo, insomma, che si senta. La prossima canzone per i nostri ascoltatori. La prossima canzone è il singolo estratto, il primo singolo estratto da Awake From The Game. La canzone è The Game, e in cui partecipa anche Holly, il cantante degli Shandon e dei Fire. In studio ancora con i Several Union, capitolo recensioni musicali, quali le più importanti, che cosa dicono del vostro album, in particolar modo cosa i giornalisti hanno segnalato? Beh, diciamo che sono tutti convinti che sia un album in cui abbiamo lavorato molto, insomma, in cui ci sono tanti arrangiamenti, un disco molto pieno, in cui diciamo che c'è stata una grossa cura del suono e delle melodie che lo compongono. Però è sempre bello ogni volta vedere come ognuno, insomma, veda le proprie influenze, insomma, per i gruppi di riferimento, insomma, veda come in base ai propri ascolti senta più questa o più l'altra influenza. Vediamo come. Pensiamo che questo sia un grosso punto a nostro favore. Prossima canzone? Beh, visto che qui siamo a Rock Legend, abbiamo voluto portare il nostro tributo a una grande storica band che sono gli Aerosmith, e questa è Dream On. Torneremo breve per la quarta parte di Rock Legends con i Several Union. Rimanete ancora su Radio RCS. Sing with me, just for today. Maybe tomorrow, the glory.